Europa 24. Un saluto da Alessandra Schepisi, benvenuto all'appuntamento con l'Europa. Apriamo con l'ambiente. L'Europarlamento di Strasburgo approva una direttiva che impone nuovi limiti agli inquinanti dell'aria. L'obiettivo è abbassarne entro il 2030 la quantità nell'atmosfera sotto i livelli del 2005 e dimezzarne l'impatto sulla salute. Tutto questo mentre oggi arriva l'allarme dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Ogni anno nel vecchio continente sono quasi 500.000 le persone che perdono la vita a causa dell'inquinamento atmosferico. Sentiamo. 467.000 morti premature l'anno in Europa a causa dell'inquinamento atmosferico è la cifra stimata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente e pubblicata nel rapporto Qualità dell'Aria 2016. Un report che, se da un lato conferma sul fronte smog un lento ma continuo miglioramento, dall'altro ci dice che è il principale fattore ambientale di rischio per la salute umana, abbassando la qualità della vita. Contestualmente al rapporto europeo, l'Istat pubblica il dato sulla qualità della vita delle città italiane, tante ombre, qualche luce, come quello sulla crescita degli orti urbani, più 27,3%, che però non compensa la mancanza di controlli contro il rumore nelle città. Secondo l'Istat, infatti, sono 100 i capoluoghi che effettuano misurazioni del rumore, accertando superamenti dei limiti di legge nel 49,2% dei controlli. Città italiane dove in aumento l'uso di energia alternativa, si moltiplica il car sharing e le auto ibride, ma sono ancora poche le piste ciclabili. Passi da gigante anche sul fronte rifiuti, ma a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi a Strasburgo ha assegnato il premio Lux del cinema europeo. Sentiamo chi è il vincitore. È Toni Erdmann, della regista tedesca Mare Nade, il vincitore del premio Lux, il premio che valorizza il cinema europeo. Il film, una commedia dolce amara su una donna stacanovista alle prese con un padre che vuole metterle sotto sopra la vita, è stato votato dagli europarlamentari, la giuria d'eccezione del premio. «Sono felice di essere una regista europea», ha dichiarato Mare Nade, «perché questo film è nato grazie ad aiuti nazionali ed europei che ci aiutano a correre il rischio di produrre film che possono non piacere a tutti. E sono i film che ci aprono gli orizzonti. Tutti si sono stupiti del senso dell'umorismo tedesco», ha detto, «ma la verità è che ogni paese crede di avere il miglior humor e il miglior calcio». La premiazione è avvenuta alle 12, nell'emiciclo. «La gente si chiede come cambierà la nostra vita in questo mondo in rapida evoluzione», ha spiegato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. «Le opere dei finalisti ci provano che possiamo costruire un mondo migliore se ci prendiamo cura delle persone accanto a noi». Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. E rimaniamo sempre a Strasburgo. Domani il Parlamento europeo voterà una risoluzione sull'ipotesi di uno stop dei negoziati di adesione tra l'Unione europea e la Turchia fermi dal 2013. L'orientamento prevalente tra gli eurodeputati sarebbe quello di congelare temporaneamente i colloqui d'accesso per mandare un messaggio chiaro alla Turchia sulla violazione dei diritti umani. Qualunque sia l'esito del voto di domani, per noi non ha nessun valore. La secca replica del presidente turco Erdogan, che è tornato a criticare l'Unione europea anche per un presunto sostegno ai terroristi della rete di Fethullah Gulen e del PKK curdo, mentre la cancelliera tedesca Merkel ribadisce occorre tenere aperto il filo dei colloqui con Ankara. E sempre la cancelliera tedesca è intervenuta sull'ipotesi di uscita degli Stati Uniti di Trump dall'accordo transpacifico di libero scambio. Ve lo dico sinceramente, non sono contenta che l'accordo probabilmente non verrà realizzato. E dopo il glifosato è giunta l'ora per l'Unione Europea di pronunciarsi anche sull'uso del bentazone. Oggi a Strasburgo gli eurodeputati voteranno una risoluzione che chiede alla Commissione Europea di sospendere il rinnovo del permesso per l'uso di questa molecola erbicida, la cui autorizzazione scade nel giugno 2017, frequentemente impiegata per il trattamento di colture come soia e leguminose, ma anche per il riso. E con questo è tutto, un saluto e una buona giornata da Alessandra Schepisi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.